attenzione al canale 23. Senti, chi sei per un controllo? Il controllo è 7 più 4. Tu sì, ho capito, grazie. Ah, l'hai compresa allora? Sì, l'hai più compresa, l'hai più compresa. Ma sono in macchina, sai che tu a San Francesco per uscire così, andare a chiacchierare con qualcuno perché a casa non c'è. Mi credo che c'è Battiso, compagno, c'è nessuno? No. Nulla da fare oggi. Mi sa che sono tutti dormiti. Ehi, allora vedi cosa succede qua, se no quando si invecchia, te ne incoglionisci. E non ho più voglia di parlare. No, ma sai cosa, la mia sera senza marino, però se te lo passo. E adesso sono salito da far quarta, a Fidelito, per vedere se entra, tanto per prendere due chiacchiere, perché rispetto a te già ti sento benissimo. Ma io facendo la tavola sentivo un po' più basso. Purtroppo è così. Bisogna aspettare che entri qualcuno. E adesso mi devo comprare. Hai idea tu per comprare un Rosberg, però che idea fusato? Perché questa antenna non l'ho ancora controllata, sto provando così. Io ce n'ho uno, ma è grande. Rosmetro wattametro della ZG. Ma uno, voglio comprare uno piccolo per mettere in macchina, tutti di grandi. Domani, se dovessi riprendere a fare la stazione fissa, allora mi compro la portatura. Tra l'altro, voglio comprare un giocattolino tanto per provare a stazionare a questa antenna. E poi anche perché ho intenzione di mettere una boomerang sul balcone. Mi sa che quelli piccolini... Qua non so chi ce ne abbia, non so se ne ha Fusaro, ma boh. Ah, di negozio chi è arrivato, solo Fusaro per vendere questa apparecchiatura a Sasso. Solo lui, l'altro di su non c'ha nulla, non c'ha nulla l'altro di su, la CBC non c'ha nulla. Ascolta, io devo comprare un po' di cavo di questo RG8, almeno quello ce l'avrà o no? Non ha neanche il cavo. No, no, non prende RG8 perché RG8 non serve. E più che altro puoi prendere, adesso non mi ricordo quello grigio come si chiama, oppure l'RG58. L'RG58 forse intendendo, ma io ne ho un pezzo così, avevo una vecchia più lunga, sul piccolo si tratta 40 anni. Anche perché però non è certo questo, è possibile questo caso, tu anche i siloti non li sai, gli stati clienti, è una schifetta. Comunque ne devo comprare il generico perché voglio fare un esperimento, per fare una boomerang o qualche antennino sul balcone, perché la sera io avevo voluto scambiare quattro chiacchiere, mi sto mettendo in macchina, salgo la parte alta. Però poi alla fine ho messo l'altare e faccio questa macchina. Niente, comunque la cosa è bene, è arrivata molto bene. Se c'è l'antenna sul tetto arriviamo, in tutta la città arriviamo. Anche un po' bassi, ma già arriviamo però, con l'antenna sul tetto. Antenna come si deve, sul tetto. Oh! Chiedi se c'ha, adesso non mi ricordo come si chiama quello, come l'RG58, però è grigio, che è molto più buono. Cazzo, c'ho Gianni dal 10, cazzo, che sta sparando come un pazzo, sta quasi coprendo. E ascolta, ma come diametro è sempre lo stesso, non è che sia grosso? No, come diametro è lo stesso, solo che è molto più buono quello grigio. Costa un po' di più di quello dell'RG58. Ah, questo RG58 non è serio, c'ha la massa, la calza che è sottile, vero? Diciamo che non lo so, non mi piace il campo, non neanche me lo ricordavo che era così brutto il campo. Da vecchia che magari assicurati una volta ti facevano anche i video questi cavi, adesso ti fanno un salato. Ho trovato in cantina frugando un pacco dove c'erano tutti i CTL, bussolotti AL, ho trovato un sacco di materiale proprio, avevo dimenticato una scatola e così ho per caso si è fatto un attimino, tenendo la macchina, ho detto a quello che mi ha messo, e qui ho portato questa fontana a Fusano, comunque è caro Fusano, 75 euro questa mini turbo calamità tagliato, fatto sposando in macchina. No, io più che altro la puoi mettere sul poggiolo, sistemata bene però, messa a massa e tutto quanto, perché sennò ti dà problemi, ti dà. Il cavo, questo grigio che non mi ricordo che come si chiama, 100, non me lo ricordo più come si chiama, costa un pochino di più dell'RG58, ma è molto più buono ed è schermato pure. E infatti io intendevo comprare un cavo con cavi schermati. E tipo l'altro giorno ho comprato un cavo per la televisione, all'interno una casa c'è la schermatura argentata da quella specie di carta argentata, che probabilmente è per te, anche per gli stati. Comunque vabbè, adesso la soluzione è questa, perché non so, tanto lo stavo spiegando agli amici, stavo spiegando a Battiglia con la gente lì, ma perché volevo mettere anche una sul tetto. Purtroppo come abito io c'è un attico è di proprietà, per cui per andare dentro dentro casalone, questo dentro, per cui in Europa in Cretale chiede di mettere un'antenna dentro casa, per cui per adesso dovrò andare avanti con un antennino, con una boomerang, e poi vediamo, perché questa gente qua non mi sembra molto disposta a farmi piazzare un'antenna questi dell'attico. No, devi avere che se la devi mettere nel poggiolo che ci sia una ringhiera in ferro per appoggiarla e sistemarla, hai capito? Per la massa. Sì, quella è la ringhiera in ferro, esatto. Il problema è che io sono al secondo piano, per cui da una parte del monte, verso il monte è tutto libero, per cui dovrei sparare per mettere una bugra in quelle grandi, non dovrei sparare verso il monte. Mentre invece verso il lato dolce, sono qua per la palazzo, che è questo tre piani, per cui sicuramente avrò una zona d'ombra, ma senz'altro almeno sentirò un po' meglio, perché ripeto, Marino mi arrivava con un segnale di una radio 3, questa è una cosa misera. No, sì, al secondo piano se è piazzata bene l'antenna, sta tranquillo che il palazzo lo passi, non ti preoccupare di quello, dovresti provare a farla che l'appoggi bene con una gaffa e che le fai bene massa, ecco cosa ti sto dicendo io, farla fare bene massa e con una staffa ben fatta. Ecco, siamo qui nel canale 10, lo stiamo sparando davvero, grazie, senza manetta, ma come se ti copre. Sì, no, lo faccio così, mi auguro che una volta che ho fatto la antenna farò fare le balle a qualche televisione, capito? Perché magari essendo bassa e magari qualcuno può avere anche la televisione di fondetto, salata, che cazzo non so, magari mi toccherà bisticciare, capito? No, Nico, non ti devi preoccupare, già viene a bussarti la porta, vengono a bussarti. Guardate che c'abbi qualche apparato che si è omologato, perché se vengono a controllarti a casa, importante avere un apparato omologato. No, allora questo apparecchio qua non lo so se è omologato, me l'hanno dato tanto per provare, per entrare a salutare gli amici, perché io di mio due di Baracchino me l'avevo cercato, sono da Fayette, che era il Baracchino di Ali, che comunque era un garage, e poi toccai, ciclo della 24, che chissà che fine ha fatto, perché poi non l'ho più visto neanche un mattino, lavorare di una parte. Ma quando deciderò di fare una stazione fissa, allora è chiaro che dovrò comprare, intanto dovrò acquistare sicuramente, ho acquisto un vecchio valvolare di quelli di una volta, perché quelli arriva meno QRM, tutto. poi non lo so, questi bigliettari si vedono, insomma, così sono buoni come quelli di una volta, quelli per lavorare alla misiliare. Io ho avuto la mia sonda al campo, poi ho avuto, come questa vittoria, la terra di trattativa alla misiliare, non sono niente, anche la terra è bella, anche la terra. Poi sono stato, ho avuto alcuni appariti. Quando va a volare, devo tenerlo, non è che l'hanno volato. Più che altro è così. Devi mettertelo bene, che non disturbi a nessuno, perché non fanno altro che chiamare così e subito ti vengono a casa, fanno il controllo, se non c'hai apparato omologato sono cavoli amari, perché non è che vengono molte volte, non è che vengono di oh, mi guarda che mi stai disturbando il televisore, fanno prima la chiamata alla cosa e te lo dicono subito, se non c'hai apparato omologato. Io te lo sto già avvertendo da adesso, se in caso disturbi. No, ma non lo sto usando adesso a casa, no? L'ho usato l'altro giorno per fare la prova con l'antenna della macchina, la vecchia Curie, ho messo sul balcone, però insomma, è troppo QRM, è troppo casino. Per cui preferisco la sera andare a mettermi in macchina, così come ho fatto adesso, faccio la svolta macchina, sì, pazienza, non ci sta. Tanto non lo so fino a che ora c'è gente la sera o la notte ce n'è gente. No, non te lo so dire, io alle 8 ho finito di chiacchierare, quindi non so poi dalle 8 che ci sarà la notte, non penso. Una volta c'è il problema che era tre pagliette, vado verso di giù. Vabbè, comunque. Ho approfittato così l'entrata, ho salutato di gente, ho sentito un amico che si chiama Tatiani ieri, per cui diciamo che mi ha fatto piacere. Scusa, Sesto, mi sono convincerato di avere tutte queste note, mi sono controllato che siamo tutti con il mare. No, sono tutti così, molti sono spariti. Molti hanno lasciato e molti se ne sono andati. Purtroppo questa, la frequenza della 27 è da un paio d'anni che ha iniziato, torna, perché non c'era nulla, non c'era più. Però non lo so cosa della notte, se ce ne sono, se non ce ne sono. Io durante il giorno ne sento pochi e nulla, però la notte no, non c'è nessuno, non so se ce n'è qualcuno. Ora sì, non è vero, perché molte volte sono così strano, non c'è una volta non l'ha fatto tutta la notte, poi la mattina presto, ma siamo divertiti, adesso certamente. La frequenza, ormai con la storia dei computer, dei cellulari e tutta questa cosa digitale, ormai la gente chiaramente, se rimane frequenza rimane, perché è la passione, una vecchia passione. Ma io sono sicuro che c'è molta gente che ascolta, anche dei vecchi, non entrano, ci sono molti radioamatori che ascoltano, e magari non entrano. Io qualche volta così, adesso non ce l'ho più, ma avevo un apparato da ascolto, con anche la licenza. Con la licenza allora ho avuto in altre frequenze, ho sentito tante persone che attenavano, e per una volta ho sentito che vado ad ascoltare il 27. Però sta, va bene, così mi ha appassionato insomma sempre trovare gli amici. L'unica cosa che mi dispiace è che qualche anno fa un amico radioamatore mi aveva regalato un bellissimo apparato, molto bello, con tante frequenze, portatile per la notte, però era un bel regalo perché mi sono una volta, da stella, e io siccome non lo usavo, difficoltà perché era molto complicato. Allora l'hanno portato a un amico, a un amico parente, e l'hanno lasciato là. Lui non so che fine ha fatto, magari c'è ancora, magari qualche giorno dopo lo controllo se c'è, perché lì c'è un parente, posso vedere un po', perché se c'è qualcosa posso andare a comprare roba e poi magari uso poco e riesco a vedere un po'. Anche se sono stati spedati, qualcosa dovrebbe esserci. Scusa un attimo, Stavo sparando con le dita, certo. Allora, sentiamo il canale 23.